Io quartiere, tanto tempo. Bambini, oggi vi voglio regalare un altro pezzo di figlia degli elementi. Mi fa molto ridere perché, cioè, il protagonista è proprio l'uomo perfetto. Allora, vi racconto un po' il contesto. La nostra protagonista aveva un mal di testa fortissimo, quelle cose che si chiamano emicranie. E di solito quando lei aveva questi mal di testa mandava tutto il mondo a fanculo e lei restava da sola. Però Aldo, l'uomo perfetto, invece le aveva fatto un massaggio della Madonna Santa, così, così bello che lei si è addormentato benissimo. Quindi il pezzetto che vi leggo è così. Figlia degli elementi, pagina 132. Quando si svegliò, Aldo era ancora là, seduto accanto al letto e assorto nella lettura di una rivista. Si era tolto le scarpe e aveva le gambe accavallate e le maniche della camicia arrotolate. Aldo, la sua voce era ancora rauca per il sonno, lo osservò e si accorse che aveva i piedi nudi. Aldo, dove sono le tue scarpe? Lui sorrise, divertito. Vedo che stai meglio, mia cara. Secondo te, avrei dovuto massaggiarti con le scarpe indosso? Ma dove hai imparato? Gli chiese ricordando le piacevoli sensazioni che l'aveva regalato poco prima. Da mio nonno. Era un esperto di massaggi e li considerava una specie di medicina. Con le dita riusciva a eliminare ogni dolore. Mio nonno era un uomo forte e amabile. Proprio come te, forte e amabile, capace di lenire il dolore con le mani. Aldo avrebbe voluto mostrargli quali altre cose sapevano fare le sue mani, oltre ai massaggi.